La devozione nei confronti della Vergine è fortemente consolidata a Bologna. Come dimenticare, infatti, che uno dei simboli della città è il santuario di San Luca, sul Colle della Guardia, all'interno del quale è conservata una delle più enigmatiche raffigurazioni della Madonna. Si tratta di un quadro in cui il volto di Maria appare di colore scuro, brunito, analogamente a quello di altre Madonne nere che si trovano sparse per l'Europa. Le leggende sull'origine di questo dipinto sono innumerevoli. La più diffusa vuole che l'autore sia stato l'evangelista San Luca, ipotesi confutata dalle analisi scientifiche, che datano il quadro al XII secolo, e che sia stato rinvenuto a Costantinopoli all'interno della Basilica di Santa Sofia dal pellegrino Teocle Cmenia, con le indicazioni di collocarlo sul Colle della Guardia. Non sapendo dove si trovasse, costui si sarebbe recato a Roma, dove avrebbe incontrato l'ambasciatore bolognese Pascipovero de Pascipoveri, che gli avrebbe dato le credenziali per presentarsi al Senato della città. Per alcuni, questa leggenda sottintende dei significati esoterici, legando il culto della Madonna Nera a quello di Sofia, la parte femminile di Dio. Non a caso viene citata la Basilica di Santa Sofia come luogo di ritrovamento del dipinto e ci sarebbero analogie con la disciplina iniziatica per eccellenza, l'alchimia. Il nome di Teocle Cmenia, infatti, ha una forte assonanza con l'espressione alchimia, con cui gli antichi egizi indicavano la terra nera, resa fertile dalle inondazioni del Nilo, forse all'origine della stessa parola alchimia. Anche per questo motivo alcuni vedono in questa tradizione un retaggio dell'antico culto di Iside. Dopotutto, la Madonna del quadro conservato a San Luca non è molto diversa da com'era raffigurata Iside al tempo degli Egizi e successivamente presso i Romani. Le storie nate nel contesto di questo culto parlano di un figlio nato da una vergine e Iside stessa, dea dal volto brunito, veniva spesso ritratta con in braccio un bambino, Horus, esattamente come la vergine del santuario San Luca. Tuttavia, si tratta soltanto di speculazioni. L'origine del quadro della Vergine di San Luca è avvolto nel mistero, sebbene sia opinione comune che sia stato realizzato in Italia, probabilmente copiando un'icona proveniente dall'Oriente. Grazie a recenti studi radiografici, infatti, è stato possibile scoprire un altro dipinto al di sotto dello strato di colore oggi visibile, un dipinto di matrice chiaramente bizantina, in cui il ritratto della Vergine è affine alle rappresentazioni presenti nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. A provare l'origine bizantina del dipinto nascosto, l'uso dell'indaco per il colore della veste di Maria, all'epoca non ancora usato in Italia. Ricordiamo che dopo l'anno 1000 i rapporti commerciali con l'Impero Romano d'Oriente erano intensi e la tavola originale potrebbe essere arrivata tramite un mercante o potrebbe essere stata portata in seguito dai crociati, analogamente a tante altre icone orientali dette appunto Madonne dei Crociati che si trovano un po' in tutta Italia. Secondo quanto scritto da Leandro Alberti nel 1539, Teocle Cmenia avrebbe consegnato l'icona nel 1160 a due sorelle, tali Azzolina e Beatrice Guezzi, che nel 1143 avevano fondato un eremo sul Colle della Guardia dedicato a San Luca. Ma si tratta di un clamoroso falso storico. In realtà a fondare l'eremo fu un'altra donna, Angelica Bonfantini, di nobili origini, che nel 1192 si ritirò sul Colle della Guardia, in cui aveva dei possedimenti terrieri, con il proposito di costruire una chiesetta. Una volta presi i voti presso i canonici di Santa Maria in Reno, donò alla congrega i terreni in cambio dell'aiuto nella costruzione della chiesa, riservandosi l'usufrutto dei terreni e la rendita delle donazioni dei fedeli. Ne scaturì una disputa giuridica che durò per più di 10 anni e richiese l'intervento di entrambi i papi che si succedettero in quel periodo, in quanto con la crescita di popolarità dell'eremo, i renani rivendicarono proprietà e diritti sulle offerte. Una volta chiusa la controversia a favore di Angelica, costei presentò un salatissimo conto alla congrega, con una richiesta di risarcimento di ben 1000 lire bolognesi dell'epoca per le offerte ingiustamente sottratte. La chiesa costruita da Angelica Bonfantini venne ristrutturata più volte. La prima nel 400, quando la tutela dell'icona della Vergine di San Luca era stata affidata alla Compagnia di Santa Maria della Morte, poi nel 600 e infine nel 1765, al termine di un lavoro di sostanziale rifacimento durato 40 anni. Le leggende metropolitane che riguardano San Luca non si fermano all'origine dell'icona sacra. Si dice infatti che il portico che conduce al santuario sia formato da 666 archi, ovvero il numero biblico della bestia. C'è chi suppone che si tratti di una metafora della Vergine, rappresentata dal santuario, che schiaccia il serpente tentatore, ovvero il diavolo, rappresentato dal porticato. Quel che è certo è che con i suoi quasi 4 chilometri è il portico più lungo del mondo, ma sul presunto numero di archi è possibile sollevare un'obiezione. Come vanno contati per ottenere proprio 666? In particolare, non è chiaro se vanno inclusi anche gli archi del Meloncello, quelli che collegano il portico di via Saragozza con la via di San Luca e che furono aggiunti dopo la fine dei lavori. I due archi che formano il portico Bonaccorsi, che si trova all'inizio di via Saragozza, vanno contati? Dove finisce il portico del Cammino e dove comincia il portico della Chiesa? In pratica, a seconda del criterio usato per la numerazione, il totale può variare anche di 20 unità. Chiunque abbia percorso il Cammino di San Luca almeno una volta sa che su ogni arco del portico è riportato un numero progressivo. Convenzionalmente, l'ultimo arco, quello prima della rotonda su cui si affaccia il santuario, è indicato come il numero 658. Tuttavia, è bene ricordare che la numerazione, originariamente, non era la stessa di oggi. Infatti, negli archi ora indicati come numero 380 e 381, è visibile l'antica numerazione che li indicava come numero 368 e 369. Questo perché la realizzazione del complesso del Meloncello è successiva alla costruzione dei due tratti che collega e ha reso necessaria una nuova numerazione. Se si vanno a consultare i progetti di quando venne varato il progetto, non c'è traccia di un'indicazione sul numero degli archi che l'opera complessiva avrebbe dovuto avere. Si procedette infatti per stadi successivi. La costruzione del portico venne decisa nel 1663, quando si stabilì di collegare tra loro le diverse stazioni del rosario che portavano al santuario, nate spontaneamente dalle offerte dei pellegrini. Ma già nel 1589 la strada che si arrampicava fino alla cima del Colle della Guardia era stata acciottolata per agevolare il cammino dei fedeli. Venne istituito un comitato e al momento di finanziare l'opera l'intera cittadinanza partecipò alle spese, senza distinzione di reddito o classe sociale. Dopotutto, l'adorazione della Vergine di San Luca è un culto molto sentito a livello locale e ha sempre costituito anche un'affermazione dell'indipendenza della città dai legati pontifici, persino quando si trattava di materia religiosa. Si ripensi al caso della Basilica di San Petronio, ugualmente finanziata dalle istituzioni laiche e con grande partecipazione da parte dei bolognesi. La prima pietra fu posata il 28 giugno 1674 e nel giro di un paio d'anni venne completato il primo tratto di porticato, quello di via Saragozza. I lavori per realizzare il tratto collinare iniziarono il 17 ottobre 1677. È in questa circostanza che si verificò il celebre Passamano di San Luca, una lunga catena umana composta dai garzoni dei filatoi da seta, dalle donne e da un piccolo esercito di volontari per trasportare il materiale edile sul colle. I due tratti vennero poi congiunti tramite l'arco del Meloncello nel 1721. Pare che il computo che come somma dà 666 sia stato eseguito a fine 800 da un sacerdote, Luigi Breventani, nominato nella congregazione di San Luca per il restauro della chiesa e del porticato, che nella conta incluse però sia gli archi all'ingresso del santuario sia quelli che compongono il Meloncello, ma non i due archi del complesso monumentale Bonaccorsi. Una delle tradizioni più longeve della città di Bologna è la processione dell'icona della Vergine di San Luca. La prima volta che l'icona venne portata in città fu nella primavera del 1433, quando le piogge torrenziali rischiavano di rovinare i raccolti. A pensarci bene, è il motivo opposto che spinse la cittadinanza a portare in processione, più di un secolo dopo, la Vergine della Pioggia nella speranza che iniziasse a piovere. Anche in questa occasione le preghiere dei fedeli sarebbero state esaudite, inaugurando una tradizione che continua ancora oggi. Le confraternite del